Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Acqua, fuoco, aria, terra, natura al 100% al servizio del nostro benessere e della nostra salute. Oggi parliamo di terme, per chi di voi le ha già provate, per chi di voi sta accarezzando l'idea. 800 24 00 24, chiamatemi se state cercando un modo piacevole e naturale per rigenerarvi, se volete fare scorta di benessere. Le terme sono anche e soprattutto questo, ma chiamatemi anche per conoscere l'effetto protettivo, preventivo, terapeutico dei diversi trattamenti che oggi vengono proposti nei centri termali. In linea con noi il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, oggi lei un po' ci farà da cicerone, ci spiegherà i meccanismi d'azione delle acque termali, le loro differenze, i modi di utilizzarle, ma noi, come anticipato, non parleremo solo di acqua, ma anche di fuoco, di aria, di terra, insomma, parliamo di natura al 100%. Beh, la nostra Italia, Nicoletta, la nostra bella Italia è ricchissima di sorgenti termali, no? Pensate che è stato calcolato che nel nostro paese ce ne sono più di 370-380, che sono oltretutto ben distribuite su tutto il territorio del mare. Quindi è un'offerta molto ricca, molto qualificata, di acque e di trattamenti termali. Qualificata ma anche diversificata, perché le acque termali, tutte le volte lo ripetiamo, non sono tutte uguali, hanno caratteristiche chimiche e fisiche diverse, quindi che le rendono diverse e qualche volta addirittura uniche. Noi abbiamo talmente tante acque sul nostro territorio che possiamo veramente avere tutta una serie di offerte e di risposte importanti. Le acque più comuni che si utilizzano nel termalismo sono le acque oligominerali, abbiamo poi le acque sulfure, le acque salzobromoiodiche, le salze, le bicarbonate, le solfate. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Un imbarazzo un cocktail magnifico. Un imbarazzo piacevole, perché queste acque hanno delle caratteristiche specifiche, possono essere utilizzate sia per la terapia preventiva, per la curativa, per la riabilitazione, ma anche per la medicina del benessere. Eh certo. E poi, come dicevamo, abbiamo anche il fuoco, l'aria e la terra. Per quanto riguarda questi altri elementi che sono accoppiati o accoppiabili alle terme, noi sappiamo che la medicina termale appunto non è solo acqua, non è soltanto la straordinaria potenzialità delle acque, ma è anche terra, quindi anche fango. E i fanghi certo. Termali sono un trattamento naturale molto importante, ma è anche aria, perché noi possiamo utilizzare per le vie respiratorie i vapori che derivano dalle acque termali, quindi tutta una serie di straordinari trattamenti per le nostre vie respiratorie. E poi anche fuoco. Perché fuoco inteso come calore, caldo, calore, certo. Calore, quindi possiamo sfruttare dei microclimi estremamente caldi, come certe grotte naturali che sono presenti nella nostra offerta termale, che appunto possono essere accostati e avvicinati al senso di fuoco. Quindi è un'offerta veramente a tutto tondo per quanto riguarda la medicina naturale. Per stare bene o per tornare a stare bene, ma professore, mi piace sottolineare che le terme sono a tutti gli effetti il luogo in cui si pratica la medicina del benessere. Ne parliamo proprio qua, essere benessere. È la medicina che può essere considerata l'anticamera della medicina preventiva. Beh, è l'anticamera perché la medicina del benessere è un po' l'autopromozione della salute, quindi è proprio il primo step. È una medicina preventiva primaria attiva, cioè si vanno a cercare quei comportamenti virtuosi che poi portano ovviamente alla possibilità di riduzione delle patologie croniche che ci possono colpire. Proprio su questo tema la validazione scientifica che accompagna ormai da anni tutte quelle che sono gli studi, le ricerche sulle terapie termali, anche per le classiche indicazioni, quelle artrosiche, le indicazioni della cute, vascolari e così via. Ultimamente ci stiamo concentrando su degli studi scientificamente validati che vogliono dimostrare che alle terme c'è una reale risposta a quelle che sono le esigenze di benessere, ma benessere inteso nel senso più profondo, benessere come si intende dal concetto anche di salute dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, quindi un benessere profondo, oggettivo, che si basa su alcuni parametri. In due parole sono questi: abbiamo visto con degli studi ben precisi che sì, durante delle terapie termali si possono produrre, si modulano, si producono oppure si riducono delle sostanze che danno una sensazione di piacevolezza. Tutti sanno cosa sono le beta-endorfine, o perlomeno è un termine abbastanza conosciuto e noto, cosa sono le encefaline, cos'è la serotonina. Bene, durante i trattamenti termali, e penso degli esperimenti fatti anche dal professor Marco Longo di Siena sul dei fanghi, o anche a Cozzi, a Pavia, con dei fanghi, si vedeva chiaramente che nel siero si alzavano le beta-endorfine, come si alzano delle encefaline in corso. Quindi di gli ormoni del benessere, diciamola, sì, sono questi. Gli ormoni del benessere, gli ormoni che ci fanno star bene, gli ormoni che regolano, sono sostanze morfino simili queste, quindi hanno un'azione specifica anche sulla riduzione dei dolori, del dolore. Ecco, e poi la serotonina. E poi dove la mettiamo? Infatti, la serotonina vogliamo dimenticarci di lei. La serotonina, che è un neurotrasmettitore cerebrale. Questo sì, neurotrasmettitore, come tutti sanno, ormai perlomeno è una divulgazione abbastanza nota, agiscono nel ritmo sonnoveglia, nella regolazione dell'appetito, nel comportamento sessuale, ma soprattutto nel tono dell'umore. Quindi, professore, io vorrei chiedere agli ascoltatori di intervenire per raccontarci le loro esperienze alle terme, se sono andate alle terme per stare bene, per mantenersi in salute, o se sono andate magari per effettuare dei cicli di trattamento per prevenire o per curare alcune patologie, ma soprattutto vorrei invitare gli ascoltatori a chiamarci per capire come attraverso le terme, le acque, i fanghi, le inalazioni ci si può mantenere giovani e belli nel senso pieno del termine, invecchiare bene, ridurre anche lo stress. 800 24 00 24, chiamateci perché ci sono delle novità molto interessanti, e quindi approfittiamo di questa natura, di questa clinica della natura, per continuare a stare bene. Continueremo a parlare di acque termali, quindi di acque delle preziose virtù salutari, e oggi parliamo, naturalmente lo facciamo in una giornata particolare, oggi è il 22 marzo, è la giornata mondiale dell'acqua, un bene prezioso che consumiamo e sprechiamo in quantità sempre maggiori. Quest'anno il World Water Day, la giornata mondiale dell'acqua, ha un'importanza ancora maggiore perché il 2013 è l'anno internazionale della cooperazione nel settore idrico. Ma c'è un'acqua che interessa in modo particolare i ricercatori e tutti coloro che stanno lavorando e si stanno impegnando in progetti per ridurre gli sprechi. È l'acqua virtuale. Ne avete mai sentito parlare? Ce ne parla la dottoressa Marta Antonelli, ricercatrice al King College di Londra e autrice con Francesca Greco di un libro che si intitola L'acqua che mangiamo. Buongiorno, dottoressa Antonelli. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Che cos'è l'acqua virtuale? Allora, l'acqua virtuale è letteralmente l'acqua che mangiamo, cioè l'acqua che è stata necessaria a produrre i beni che portiamo sulla nostra tavola, quindi che compriamo al supermercato e che purtroppo sprechiamo in quantità ingenti, quindi l'acqua che è stata necessaria alla produzione di questi beni durante tutte le fasi della filiera produttiva agroalimentare. E la maggior parte dell'acqua virtuale, dell'acqua che viene utilizzata per produrre questi beni, è concentrata nella prima fase della produzione, cioè quella che avviene sul campo, sì, poiché l'acqua è proprio l'input di produzione essenziale per l'agricoltura e è necessario al processo fotosintetico della pianta durante tutta la crescita. Senta, ci vuole raccontare magari ci sono dei dati che sono a leggerli, no? Vengono quasi le vertigini. Ci racconta qualche dato? Sì, allora il consumo di acqua virtuale giornaliero pro capite in effetti è impressionante. In Italia siamo un po' al di sopra della media mondiale, consumiamo 3.600 litri d'acqua ogni giorno. La maggior parte di quest'acqua proviene dagli alimenti, dai prodotti di origine animale, e il 60% di quest'acqua virtuale che consumiamo ogni giorno proviene dall'estero, quindi è importata sotto forma di cibo, e importazione che può essere considerata appunto come un trasferimento di acqua virtuale da questi paesi al nostro. Quindi è veramente un grande patrimonio, è un oro blu come viene chiamato. Assolutamente. assolutamente, è un oro blu di cui non si ha consapevolezza, è proprio... Ecco, lei diceva, dottoressa, non si ha consapevolezza e queste iniziative sono proprio volte ad aumentare la consapevolezza, perché da questa possono nascere una serie di possibili accorgimenti per ridurre la propria impronta idrica, anche a tavola. Ci vuole dare qualche consiglio? Assolutamente. Il primo consiglio è quello di preferire il cibo locale e di stagione, poiché quello che viene prodotto da agricoltura tradizionale o che in genere viene prodotto localmente è più friendly nei confronti dell'ambiente, quindi provoca un impatto minore. Sì. L'altro consiglio che posso dare è certamente quello di ridurre il consumo di carne. Molto spesso ne mangiamo. La mangiamo durante tutti i giorni e questo oltre che far male alla nostra salute fa male anche all'ambiente. E il terzo consiglio che posso dare, forse il più importante, è quello di diventare più selettivi nel momento in cui si consuma e si acquista la carne, quindi preferire carne che proviene da sistemi di allevamento al pascolo rispetto a sistemi di allevamento industriale. Preferire infine le carni bianche a quelle rosse perché hanno un'impronta idrica di gran lunga minore. Di questi altri consigli si trovano nel libro che lei ha scritto con la sua collega Francesca Greco, ricordo L'acqua che mangiamo, che oggi e solo oggi si può scaricare gratuitamente sul sito della Barilla Center for Food and Nutrition, che è barillacfn.com. Dottoressa Antonelli, grazie e complimenti. Grazie a voi. Buona giornata. A lei. E noi torniamo. Professore, ha sentito che dati impressionanti? No, sono straordinari, quindi è stata una pillola della dottoressa veramente interessante che ci fa riflettere. E noi invece continuiamo a riflettere sulle acque termali. Professore, io le metto, lei ha detto che è un paese ricchissimo di acque e che ci sono lungo tutto lo stivale. Nel corso naturalmente della trasmissione approfitteremo della sua competenza per farci suggerire le acque più indicate per continuare a stare bene, per ridurre lo stress, un effetto anti-aging, ma anche per curare alcuni disturbi. Ma voglio salutare il professor Marco Vitale, coordinatore scientifico della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale e docente all'Università di Parma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e radioascoltatori. Professore, terme dove la natura cura. Sembrerebbe uno slogan, invece diversi progetti di ricerca provano oggi l'efficacia della terapia termale che ottiene risultati positivi misurabili in una vasta gamma di patologie, da quelle reumatologiche a quelle ginecologiche, dall'urologica alle affezioni dermatologiche. Insomma, professore, ci si può curare alle terme e la ricerca lo dimostra. Assolutamente, lei dice bene, la Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale è nata e opera proprio a questo fine, cioè finanziare gruppi di ricerca universitari o ospedalieri che abbiano come oggetto ricerche proprio sui principi attivi delle acque termali e sulle loro azioni curative. L'Italia, ho sentito prima, l'Italia è piena di sorgenti termali. E essendo naturalmente l'acqua termale un prodotto tipicamente naturale, la composizione delle acque termali è diversa a seconda delle sorgenti, ma questo non toglie specificità alle loro azioni, alla loro azione terapeutica. Per cui che sono diverse. Stavo pensando, professore, ad esempio, stavo pensando all'artrosi, ai dolori articolari. La ricerca dimostra che le terme funzionano. Non c'è dubbio, ci sono due aspetti a tenere in considerazione, i tipi di acque che con la loro composizione linea, diciamo così, diversificata hanno azione in certi gruppi di patologie, non in altri. E questo è il primo parametro a tenere in considerazione. Il secondo parametro a tenere in considerazione è il mezzo termale, cioè il modo con cui l'acqua viene somministrata al paziente, che poi possono essere diversissimi, molto noti. Si va dall'aerosol al fango, evidentemente sono diversissimi. E di questo noi parleremo. Ma le terme curano che cosa? Quando possiamo considerarle come dei farmaci? Mi faccia un elenco rapido dei disturbi che possono essere curati. Benissimo. Prima di fare l'elenco premetto che la diagnosi è una diagnosi, la diagnosi di indicazione è una diagnosi medica, sì, assolutamente medica, e il paziente che viene inviato alle terme viene inviato dal proprio medico di medicina generale, che quindi ne ravvisa la prescrivibilità, e poi secondariamente, come se non bastasse, quando il paziente arriva alle terme viene rivisitato dal medico. Sì, quindi c'è molto, ci sono tanti controlli, quindi, perfetto. E questo ci dà tutti di natura medica, tutti di natura medico prescrittiva. E ci sono anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, una terapia questo, sì, parzialmente 12 giorni all'anno, vero? Sì, è vero. Quindi questo è, dunque, mi piace sottolinearlo. Quindi abbiamo detto disturbi articolari? Le famiglie di patologie, certo, disturbi articolari vedono l'applicazione dei fanghi, soprattutto nelle artriti e nelle artrosi, cioè nei processi infiammatori acuti, i primi, e cronici, i secondi, a carico delle articolazioni, che naturalmente possono avere genesi diverse, per esempio l'osteoartrite, la spondilartrite, nomi difficili, ma che comunque vengono tutte convogliate in processi acuti o processi cronici. Da questo punto di vista scendiamo alla pancia, dottor professore. Alla pancia, va bene. Perché? Perché ride quando le dico pancia? La gastroenterologia. Bravo. Termine comune. La gastroenterologia. Dunque, nella gastroenterologia sono quindi parliamo di acque bibule, cioè di acque che non si applicano né per aerosol né per fanghi, ma che vengono bevute. Naturalmente, e sono curative per alcuni disturbi molto diffusi del tubo gastroenterico, per esempio la dispepsia, il bruciore di stomaco, dal bruciore di stomaco alla stipsi. Esatto, esattamente, quell'insieme di sintomi che portano a nausea, a gonfiore dell'addome, perfetto, e che sono piuttosto aspecifici, cioè quando non vengano trovate altre cause che possono generare. Ne abbiamo parlato tante volte a Radio 24. Esatto. Professore, disturbi anche ginecologici, e poi la saluto, perché mi sono partita dall'alto, ma sto andando sempre più giù. Ginecologici, urologici. Certo, allora distinguiamo i due. Ginecologici, sicuramente alcuni tipi di acque, soprattutto quelle sulfuree, hanno poteri antimicrobici, antibatterici e disinfettanti. Quindi tutte le patologie di natura infiammatoria sostenute da specifici tipi di microrganismi vedono nell'apparato genitale femminile, soprattutto nei genitali esterni, vedono una favorevole applicazione di questi presidi. E dal punto di vista dermatologico, anche malattie come la psoriasi, cioè malattie infiammatoria, genesi immunitaria. Insomma, quando noi dicevamo terme dove la natura cura, sembra uno slogan, ma è tutto provato. Grazie professor Vitale, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. Luciana ci chiama da Roma, 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate, benvenuta. Sono in linea, grazie. Io volevo spendere una parola in favore delle terme. Sì. Sono circa 30 anni che vado e faccio due cicli l'anno, in primavera e in autunno. Non sono andata per particolari patologie, però oggi all'età di 79 anni, quindi quasi 80, mi trovo bene, non ho dolori specifici, e forse è dovuto proprio alle cure dei fanghi. Vediamo se il professor Bonsignori conferma. Noi siamo partiti con Luciana, che ci ha detto: ho 79 anni e sto benissimo, forse è merito delle terme. Abbiamo sottolineato l'effetto anti-aging, professor Bonsignori. Sicuramente in parte merito delle terme, poi la signora Luciana avrà anche altre condizioni che favoriscono il suo stato di buona salute, però quello che dice la signora Luciana, e mi è scappato un ottimo mentre ascoltavo, è la impostazione, cioè due volte si va alle terme durante l'anno, si fanno due cicli termali, se ci sono delle patologie iniziali che cominciano a dare i primi segni, tipo appunto come si diceva prima l'artrosi o altre, intervenire si rallenta di molto il processo di queste malattie croniche. E non dimentichiamo che le cure termali non esplicano la loro azione soltanto quando si sta alle terme. Un valore aggiunto delle cure termali è che l'effetto dura anche a lungo, dura nel tempo, quindi noi possiamo anche attingere da questo benessere curativo che abbiamo nel tempo per star meglio. Quello che diceva la signora Luciana è fondamentale, perché specialmente chi si sottopone a delle cure mediche o farmacologiche, intendo, e ritorniamo sull'esempio dell'artrosi, delle malattie reumatiche, se fa periodicamente delle cure termali sotto controllo medico, vedrà ridursi le recidive, vedrà, o perlomeno le recidive saranno meno importanti. Sì. E soprattutto riduce l'assunzione di farmaci. Ecco, questo è dimostrato, non è una fantasia che i medici termalisti si inventano, è dimostrato da degli studi precisi. Le cure termali fatte bene riducono anche l'assunzione dei farmaci, quindi si migliora la qualità della vita, ovviamente, e si riduce appunto la tachifilassi, che poi è un meccanismo dovuto all'eccessiva assunzione di farmaci. Quindi anche sotto questo aspetto. E l'effetto delle cure termali dura nel tempo, perché il mezzo termale, che sia esso acqua, fango o aria o vapore, ha una stimolazione doppia sull'organismo, cioè un'azione diretta, immediata, sì. Quindi c'è una reazione immediata, però grazie alla sua azione su molte funzioni dell'organismo, soprattutto di natura ormonale, neuroendocrina, circolatoria, metabolismo basale e così via, noi possiamo notare che queste azioni veramente perdurano nel tempo. Quindi un investimento anche nel lungo periodo. Professor Bonsignori, andando un weekendino alle terme, dato che lei ha sottolineato che ci sono degli studi che dimostrano proprio questo effetto che ha una risposta ormonale, quindi è un benessere ormonale importante. Ecco. Che cosa facciamo? Abbiamo poco tempo, vogliamo andare alle terme per ricaricarci in un weekend. Su che cosa dobbiamo puntare? Facciamo un po' di tipologie. La persona sotto stress psicofisico, che cosa deve fare? Deve lasciarsi andare, deve lasciarsi immergere nelle acque, deve godere delle acque termali, deve usare le piscine termali con i vari idromassaggi, deve farsi fare dei trattamenti in vasche idroterapiche specifiche, terapeutiche, deve lasciarsi andare nell'acqua, deve godere dell'acqua termale e naturalmente deve prendere dall'acqua termale quelli che sono i benefici, quindi tutti quelli che sono i trattamenti a base di acqua, i percorsi acquatici, gli idromassaggi, le piscine, sono le cose più importanti e più decisive per dare una risposta più o meno rapida allo stress cronico e allo stress che ci accompagna tutti i giorni. Se invece vogliamo avere un aspetto di quello, sa, quel bell'aspetto riposato che quando incontri l'amica che ti dice: ah, ma sai che stai benissimo, ecco. E che alle terme si ottiene con facilità questo, ecco, aspetto. Che cosa facciamo? Allora, anche qui possiamo sfruttare gli altri trattamenti che le terme offrono, per esempio le stanze dove si possono respirare vapori di acque termali, dove anche la nostra pelle si nutre di questi vapori, si riidrata, ci sono trattamenti termali per il nostro viso, la medicina estetica sta lavorando tantissimo ora anche a livello termale per ridare appunto anche quella azione anti-età, perché le acque termali sono degli straordinari rimineralizzatori della nostra pelle, quindi ridanno minerali alla nostra pelle e a parte l'acqua la idratano. Quindi abbiamo sistemato lo stress, siamo diventati anche più belli, che altro possiamo fare in un weekend? Che cosa vogliamo di più, professore? Beh, in genere le terme sono anche, le stazioni termali sono anche in posti molto belli, quindi c'è anche l'aspetto di godere della natura che sta intorno alle stazioni termali, l'ecologia termale è un altro aspetto che, lontano dallo stress cittadino, in posti veramente belli, questo è un ulteriore valore aggiunto. Professore, abbiamo detto che non avremmo parlato solo di acqua, ma anche di fuoco, di aria, di terra. A proposito di fuoco. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Professore, fuoco inteso come calore. Partito di Andrea con questa splendida. Ma come la sto trattando, professore? No, Nicoletta, lei è bravissima. No, adesso io... con gli ascoltatori e con noi ospiti siamo sempre felici di essere da lei. Insomma, è come fare una termata. Esatto. Senta, esatto. Professore, il fuoco, lei diceva il calore e ci ha portato in una grotta. Sì. Vorrei precisare una cosa prima, le cure termali sono diverse, variegate, tante, quindi ci sono anche ovviamente le cure in grotta, fuoco, ma attenzione, le cure termali vanno fatte soltanto quando la patologia è stabile o cronica. Durante il fatto acuto, quindi quando c'è una patologia acuta in atto, le patologie termali in genere sono controindicate, quindi c'è un aspetto sequenziale. Quindi anche quando andiamo nella grotta, fuoco, calore, ci sono delle grotte naturali, dove si sfrutta appunto il microclima. È come se fosse una saunona? Una specie, perché noi sfruttiamo quel microclima caratteristico che si trova all'interno della grotta come fosse un mezzo terapeutico. Certo. Quindi possono essere delle saune elevate all'ennesima potenza, ma qui c'è il valore aggiunto che il vapore che respiriamo, perché sono in genere grotte caldo-umide, respiriamo un vapore che deriva appunto dal riscaldamento delle acque termali, quindi c'è un ulteriore valore aggiunto. Ci sono anche grotte cosiddette secche, caldo-secche, ma in realtà quelle più sfruttate sono quelle caldo, quelle caldo-umide, no? Si chiamano appunto antroterapia, è un termine un po' desueto, ma in terapia termale viene ancora utilizzato. Quindi la terapia microclimatica è molto importante anche in questo aspetto. Quindi ci sono molte, non sono moltissime in Italia queste grotte, che in genere sono naturali, sono 4 o 5, ma sono realmente delle aspetti. E curano per quali disturbi sono indicate? Allora, per i disturbi delle prime vie respiratorie, quindi problemi di infiammazioni croniche, sottolineo croniche, delle vie aeree superiori, quindi sinusiti, riniti, rinofaringiti croniche, sono veramente importanti. Ecco. Anche per poi bisogna vedere che tipo di acqua abbiamo a disposizione nella grotta, di vapore acque. Sono utili per esempio in certe forme di patologia di reumatismo extraarticolare che non possiamo trattare con il calore troppo alto, penso per esempio alla fibromialgia, ma che invece in queste grotte dove il calore diffuso, il vapore acqueo è leggermente più basso dell'acqua o del fango, che sono qualche volta controindicati, quindi possiamo curare bene queste forme di reumatismi extraarticolari. E poi tutti gli aspetti che riguardano anche certe patologie della pelle che hanno appunto, trovano giovamento dal contatto con il vaporacqueo caldo di acqua termale. Andiamo ad Aosta, c'è Paolo, 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate, i vostri dubbi. Paolo, buongiorno, poi Anna dalla provincia di Bari. Grazie, io volevo segnalarvi solamente che sono un medico, ho fatto uno studio sulle acque termali di San Vincent, le cui terre sono state ristrutturate da poco in una splendida forma, e che le acque di San Vincent hanno anche una proprietà per il recupero della fatica degli sportivi, perché abbassando il pH riescono a recuperare meglio gli sportivi bevendo queste acque. E quindi mi sembrava un argomento interessante da aggiungere un po' alla vostra discussione. Paolo ha fatto bene, anche perché molti degli ascoltatori di Essere Benessere sono sportivi amatoriali, e quindi ci sono anche delle acque particolarmente adatte. Il dottor Paolo, lo chiamo così, citava Saint Vincent, ma professor Bonsignori, per par condicio, immagino che ci siano anche altre acque lungo lo stivale. Ma allora, non ho capito bene se il collega parlava di acque per fare balneoterapia oppure acque in terapia idropinica. Mi dia le due, è andato giù, Paolo è sparito, ma mi dica lei. Non capivo cosa stava dicendo, perché si sentiva molto male, però è ovviamente la medicina dello sport trova grandissima indicazione alle terme, un'indicazione molto importante per quanto riguarda appunto il recupero di piccoli traumi e di grandi traumi. La riabilitazione in acqua, e soprattutto in acqua termale e in acqua di mare, è decisamente più vantaggiosa rispetto al recupero e alla fisiokinesi terapia fuori dall'acqua. Si può caricare prima l'alto, si possiamo mettere prima il peso, che altrimenti non possiamo gravare sull'arto interessato. Quindi, pensate che un corpo immerso in acqua, fino al testa esclusa ovviamente, corrisponde al 3%, soltanto al 3% del peso che ha in realtà. Quindi pensate che un soggetto di 70 kg, il suo peso reale in acqua è solo il 3% di 70 kg, quindi può caricare subito l'articolazione o il muscolo compromesso dal trauma sportivo. E adesso andiamo a Bari, 800 24 00 24. Anna, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Io la sento. Grazie. Mi dica. Desidererei sapere chi può consigliarmi lo stabilimento più idoneo alla patologia o alle patologie. Non credo che il criterio, lo stabilimento più vicino casa, sia quello più giusto, insomma. Credo anch'io, Anna. Sentiamo che dice il professor Bonsignori. No, quello che dice la signora è corretto. Anche se in Puglia ci sono degli ottimi stabilimenti, penso a Margherita di Savoia, penso a Torre Canne, penso a Santa Cesaria, ci sono c'è una tradizione termale improntata anche sulla talassoterapia in Puglia, che è molto importante. È naturale che il proprio medico di famiglia può consigliare la l'ascoltatore, l'ascoltatrice o gli ascoltatori a trovare quella che è la stazione termale che è più adatta al proprio medico di famiglia, oppure rivolgersi a un medico specialista, a un idrologo, o anche sul sito di Federterme che raccoglie quelli che sono i 378 istituti termali presenti in Italia. Aria, ecco il terzo elemento, aria intesa come clima, che è uno degli elementi della talassoterapia. Il mare rende mite il clima delle zone litoranee, ma grazie alla sua salinità rende anche l'aria ricca di sali minerali e ioni che il nostro organismo assimila respirando. In linea con noi abbiamo il professor Attilio Varricchio, responsabile di videoendoscopia dell'ospedale San Gennaro di Napoli e presidente dell'Associazione Italiana Vie Aeree Superiori. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, l'aria di mare è, tra virgolette, un ricostituente naturale? Assolutamente sì, anche perché estrae praticamente dall'acqua di mare i sali minerali che vengono respirati, inalati, la prima cosa, il bagno asciuga è il luogo ideale dove far soggiornare i bambini, anche per poco tempo, bastano poche ore per innalzare i livelli delle attività immunologiche di difesa dei bambini, di innalzare i neuroormoni che Fausto Bonsignori prima citava e quindi migliorare il benessere. Quando si dice cambia l'aria, si cambia, ecco, e bastano davvero poche ore. Quindi sì, e questa è un'indicazione anche per i genitori che spesso chiedono e mi scrivono: ma sarebbe veramente opportuno cercare di far cambiare aria ai bambini? Serve? Assolutamente sì, soprattutto per in questo periodo di allergie, per abbattere la carica di allergeni che troviamo sia all'esterno, quindi vicino al mare si abbassano notevolmente, sia cambiando l'aria all'interno delle proprie abitazioni, dove purtroppo migliora la climatizzazione degli ambienti, ma peggiora la qualità dell'aria che diventa secca, stagnante, albergo a 5 stelle per le infezioni virali. Alberga 5 stelle. Professore, ma l'aria è anche vapore, aerosol, un trattamento che trasforma un liquido in delle bollicine piccolissime? Sì, fondamentalmente l'aria impatta un liquido e lo fa diventare bollicine. Queste bollicine vengono praticamente trasmesse attraverso un flusso aereo e respirate. Se la bollicina è grande, rimane nelle vie aeree alte, naso, gola, orecchio. Sì. Se la bollicina è piccola, precipita verso le basse vie. Quindi il primo messaggio, quando andate presso un centro termale, chiedete sempre di fare un aerosol con ampolle dedicate alla vostra malattia. Per il naso, le docce nasali micronizzate, naso, gola. Per quanto riguarda l'orecchio, il polizia che si fa solo alle terme. Per le basse vie, quindi trachea, bronchi e polmoni, la mascherina. Professore, le terme arrivano anche a casa. È possibile infatti utilizzare le acque dei più famosi stabilimenti termali per inalazioni e lavaggi. Con quali indicazioni? È molto importante ricordare che le terme vanno fatte dove c'è la sorgente, viene chiamata appunto crenoterapia. In casa si può portare l'acqua termale, se ben conservata, in fialoidi monouso e poter fare un trattamento, diciamo, di mantenimento. Per quanto riguarda le soluzioni saline delle acque termali, sono tutte ipertoniche, quindi facciamo una distinzione. Le isotoniche servono soprattutto a rimuovere le secrezioni mucose, quindi lavano, ecco, questo mi piace. Invece le ipertoniche? Le ipertoniche, invece, avendo una concentrazione di sali più alta, decongestionano, richiamano acqua dei tessuti. Professore, grazie per essere stato con noi. No, grazie a loro per l'invito. Buona giornata. Anche a lei, arrivederla. Professor Bonsignori, ci resta da parlare della terra e quindi il fango. Fango in tutte le stagioni o solo in stagioni particolari? No, non c'è una controindicazione particolare per quanto riguarda le stagioni. È chiaro che è un trattamento che porta calore, quindi il fango si applica a 42-44 gradi e quindi può essere sgradito in alcune stagioni, ma quindi non è una controindicazione. Senta, specifica. Ma in primavera c'è la stagione migliore per fare i fanghi? Sicuramente sì, la primavera, l'autunno, ecco, l'inverno. Io vorrei, perché alla primavera, e noi siamo in primavera, quindi questa sarebbe la stagione ideale per i fanghi. Fanghi che curano e non solo, vero professore? Ma anche prevengono? Non sono ancora stati studiati pienamente, perché le straordinarie potenzialità del fango sono ancora Molte sono conosciute, ancora le stiamo scoprendo gradualmente. Allora perché... deve tornare a raccontarci tutte le proprietà termali dei fanghi, quelle che sono al vaglio della ricerca scientifica. Intanto, professore, io la ringrazio, le auguro una buona giornata. A lei e agli ascoltatori. Carmelo Lauricelli, regia, la parte tecnica, voilà, Laura Vanossi in redazione, io me ne vado, torno lunedì. Radio 24, la passione. Si sente.